Ci sono in ballo 700 milioni di investimenti per trasferire la produzione della Panda dalla Polonia all'impianto di Pomigliano d'Arco, dunque in Campania. Che cosa? In cambio di che cosa? In cambio però di una intensificazione di turni, di straordinari e soprattutto di una stretta sull'assenteismo. Un assenteismo che anche lo stesso Guglielmo Epifani della CGIL ha detto: beh, si sono registrati effettivamente tassi anomali di assenteismo in quello stabilimento di Pomigliano, per esempio in prossimità delle elezioni amministrative. Ora questo accordo si farà oppure no? Tutti i sindacati hanno detto sì sostanzialmente, tranne per ora la FIOM CGIL. E dunque tutti gli occhi sono puntati sulla FIOM CGIL. Pagina 7 di Repubblica, il dilemma storico per la CGIL. Si legge: i loro nomi magari non dicono nulla ai più, ma Michele Gravano e Peppe Enrico potrebbero diventare i sindacalisti chiave nella delicatissima vicenda per la sopravvivenza dello stabilimento di Fiat a Pomigliano d'Arco. Il primo è il segretario della CGIL Campania, il secondo quella di Napoli. Entrambi sono tra l'altro ex operai proprio di Pomigliano ed entrambi nei giorni scorsi hanno detto: è il momento di assumersi le responsabilità all'altezza della storia della CGIL meridionale. Che vuol dire? Il tema è questo: può la CGIL o la FIOM CGIL con il suo no in qualche modo assumersi la responsabilità di far chiudere definitivamente i cancelli della fabbrica campana? E questo è il dilemma che la FIOM CGIL si appresta questa settimana ad affrontare. Oh, che dire, siamo in chiusura. Comunque, ripeto, Oscar Giannino se ne occuperà alle 9. Le ultime due segnalazioni: Frattini, il ministro, si è sposato il ministro Frattini con Stella Coppi, 33 anni, di Carpi, figlia dell'ex presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Gaetano Coppi, e infatti si sono sposati in una baita in Valbadia. Galeotto fu lo sci. E infine, che dire, devo segnalare in chiusura, penso ci sia tempo, sì, 10 secondi, Peter mi fa così così. Beh, la prima pagina della Gazzetta dello Sport: azzurri, ricordate, i campioni siamo noi, spaccate il mondo, a pagina 2 e 3. D'altronde oggi anche l'Italia scende in campo questa sera ai mondiali alle 20:30 contro il Paraguay. E allora ci fermiamo. Ricordiamo il sondaggio: ci sono sempre più bambini con due genitori dello stesso sesso. La considerate questa una famiglia? Sono le 8:18 minuti. Buongiorno e ben ritrovati. Eccoci qui con la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci Deborah. Ciao, buongiorno, buon inizio settimana. Sei tonico? Questa partenza, come la vedi? Di settimana. Partenza di che? Di settimana. Ah, di settimana. Devi no, mettere sempre in difficoltà. Stavo pensando all'esordio dell'Italia. Ah, mondiali. vedi, pensa un po' te. Io neanche ci avevo pensato. Ci sono i mondiali, Deborah. Davvero, Rosciani. Guarda. Rassegnati. Allora, invece, io parlo di tutt'altro stamattina. Ritorniamo un po' indietro all'epoca della pietra, quando si barattavano tutte le cose perché non esisteva un mercato. Sto scherzando, naturalmente, non voglio mettere già in difficoltà la nostra ospite di questa mattina, che peraltro abbiamo davvero letteralmente buttato giù dal letto, perché noi vogliamo raccontare di un'iniziativa che si è svolta nel fine settimana a Milano, ma che è terminata, immagino, molto tardi questa notte. Grazie a Pellagrosi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Adesso la presento. È presidente dell'Atelier del Riciclo. E allora, che cosa avranno mai fatto in questo fine settimana? Grazie a Pellagrosi, insieme a due colleghe, hanno organizzato presso il loro Eco Concept Store nell'Atelier del Riciclo lo Swap Vacanza, la prima kermesse del baratto dedicata al viaggio e al turismo ecosostenibile. Ho detto tutto correttamente, grazie? Esatto, molto bene. Benissimo, finita tardissimo perché praticamente avete iniziato il 10, quindi non si è svolta stanotte, scusami, il 12 si è conclusa? Sì, abbiamo finito sabato notte. Sabato notte, vabbè, scusami, avevo praticamente sbagliato di un giorno con il fuso orario, mi ero confusa il fuso orario milanese. Allora, raccontiamo un po' che cosa avete fatto, perché noi in realtà di swap parliamo spesso nelle nostre trasmissioni, riferendoci però a prodotti di natura finanziaria. In questo caso avete dato la disponibilità di scambiarsi le vacanze, ma precisiamo un po' meglio, non è che, come dire, le persone che hanno aderito alla vostra iniziativa arrivavano con dei pacchetti vacanza già acquistati e poi li potevano scambiare con altri. È qualcosa di diverso, però sicuramente di molto interessante. Grazie. Hanno anche portato pacchetti vacanza. Anche questo? Sì. Un po' di tutto. Una signora ha scambiato due viaggi in treno con degli abiti estivi per bambini, per cui c'è stato veramente di tutto e di più, dal classico scambio di casa, che ormai è la cosa più diffusa a livello internazionale in questo ambito, a tutto quello che fa vacanza, quindi anche le cose che si mettono nella valigia delle vacanze, pareo, costumi da bagno, abiti estivi, e poi idee per viaggiare o, non so, una signora ha scambiato un giorno di trattamenti alle terme con, adesso non mi ricordo esattamente, secondo gli accessori mare, comunque il campo di scambio si è ampliato veramente in modo globale. E in sostanza qualcosa di cui si ha la disponibilità e che magari non si usa lo si porta da voi e lì ovviamente si prende in considerazione l'eventualità di scambiarlo con qualcun altro. Grazie, mi chiedo però gli oggetti scambiati, poi racconteremo un po' complessivamente di tutta la vostra attività, devono avere lo stesso valore economico oppure è sufficiente che ci sia un accordo tra le parti? Generalmente devono avere lo stesso valore economico nell'attività che svolgiamo quotidianamente, proprio per non tornare indietro, come dicevi tu prima, ai tempi della pietra, non è un baratto vero e proprio, quello, ma è uno scambio, quindi gli oggetti devono avere lo stesso valore, in cambio degli oggetti si ottengono dei buoni, che sono dei buoni di scambio e questi buoni corrispondono al valore commerciale dell'oggetto, poi si possono utilizzare per prendere altre cose dello stesso valore commerciale. In questo caso, come sempre del resto, quando organizziamo degli eventi, quindi delle feste che hanno un inizio e una fine, in questi casi diamo la possibilità invece di essere liberi dalle valutazioni e di fare quello che vogliono, per cui la gente si diverte un sacco. Immagino, infatti. Grazia, che cos'è l'Atelier del Riciclo? Perché so che è un'associazione di promozione sociale, ma qual è lo spirito che anima la vostra attività? Come vi siete organizzate? Come siete partite? Perché so che siete in tre colleghe a portare avanti appunto l'attività di questa organizzazione, di questa associazione. Sì, ormai siamo 10 persone, siamo partite in tre. La mission è quella, la diffusione dell'edonismo sostenibile, quindi vivere alla grande in modo però ecosostenibile e con un'impronta ecologica molto leggera. E quindi lo swap, noi abbiamo iniziato con gli swap party, che sono delle feste dedicate allo scambio, e siamo partiti con la moda e poi abbiamo fatto il design. E adesso ci siamo allargati anche all'ambito delle vacanze e anche dei trasporti, del movimento. Infatti in quest'ultima manifestazione c'era un ampio spazio non solo allo scambio ma anche alla promozione dei tour operator che propongono idee verdi e responsabili di turismo e anche al movimento verde, a basse emissioni, perché davamo gratuitamente alle persone in prova delle moto elettriche, biciclette a pedalata assistita e poi c'era questa crociera, abbiamo fatto 6 mini crociere sul Naviglio, quindi una forma di navigazione, di movimento molto dolce alla scoperta del nostro territorio. Quindi dicevo, la mission è proprio la diffusione di un modo di vivere gradevole, piacevole, la capacità di godersi la vita utilizzando però delle forme di consumo che siano ad impatto ambientale, come dire, ragionevole. Esatto. Ecco, vi siete ispirati al lavoro già svolto da qualcun altro, grazie, oppure in qualche maniera così avete visto che magari su Milano, visto che qua che prevalentemente operate, c'era bisogno proprio di portare avanti un'iniziativa adatta a questa città? Noi ci siamo ispirati per quanto riguarda gli swap party a ciò che avviene negli Stati Uniti ormai da 15 anni e in Australia da 10, quindi quella formula l'abbiamo importata dall'estero, ovviamente abbiamo dovuto adattarla alla mentalità e al costume italiano che è molto meno easy di quello americano o australiano, e la cosa invece unica che abbiamo fatto per ora in Europa è quello di non limitarci lì, di non limitarci a quello, cioè di espandere il concetto a tutti gli altri settori, quindi dicevo prima il design con gli swap party che abbiamo organizzato in triennale a Milano, ma poi continuo scambio di oggetti di design che viene fatto all'interno dell'Eco Concept Store e poi tutte gli altri tasselli dello stesso grande puzzle che è la ecosostenibilità. Grazie, dobbiamo salutarci, ma dopo i viaggi e le vacanze barattate avete in mente, visto che l'estate è ancora piuttosto lunga, di organizzare qualcos'altro di originale? No, adesso abbiamo un altro swap party che faremo a Como, quindi una cosa molto vacanziera, e poi ripartiremo in settembre con la grande kermesse della moda. Benissimo, e allora magari ci risentiremo in quell'occasione. Per tutte le informazioni che riguardano la vostra attività, per chi fosse interessato, avete un sito internet? Sì, ne abbiamo due, uno è www.atelierdelriciclo.it e l'altro è www.urbanswapparty.it. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Alessandra Salvadanaio, oggi presento la nuova guida pratica del Sole 24 Ore che esce oggi, tutta dedicata alle novità della casa. Benissimo, il nostro sondaggio, parliamo di prendere lo spunto da una vicenda di cronaca avvenuta a Siena. Qualche giorno fa è nato un bimbo che ha una particolarità. Ha due genitori, donne, Sara e Margherita. E allora, noi vi chiediamo se questa la considerate una famiglia. Sono molti i bambini che hanno due genitori dello stesso sesso. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora nel nostro sondaggio di oggi parliamo di famiglia, parliamo di bimbi con genitori dello stesso sesso. Io sono o blanco o negro, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, l'ultimo caso di cronaca di cui riportano i giornali è avvenuto a Siena qualche giorno fa. Un bambino è nato ed è figlio di due donne, Sara e Margherita, una coppia omosessuale. Sono andate in Danimarca 9 mesi fa. Una delle due, credo Sara, ha fatto un'inseminazione artificiale ed è la madre biologica del bambino. Ora noi vi chiediamo questa domanda, sono tanti, non si sa quanti, qualcuno ha detto 100.000 i figli di coppie omosessuali, forse esagerando, non si sa, comunque ci sono e non sono pochi, e gli elementi di cronaca dicono che sono sempre di più i bambini che hanno genitori dello stesso sesso. La considerate questa una famiglia? Questa è la domanda che vi poniamo su radio24.it. C'è da dire che per ora prevalgono abbastanza nettamente i no, con il 74%. Ne vogliamo discutere con il professor Francesco D'Agostino, che saluto. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. È un giurista, è presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica, scrive anche spesso su Avvenire. Voglio salutare anche la professoressa Cinzia Caporale, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, a Francesco. E allora voglio ricordare anche lei, fa parte del Comitato Nazionale di Bioetica, insegna bioetica alla Sapienza di Roma. Professor D'Agostino, le chiedo brutalmente, come la nostra domanda, lei la considera una famiglia? Non la considero una famiglia, ma non ritengo corretto dire che questo bambino è figlio di due donne. In realtà è figlio di una donna sola, sarà allevato da due donne, cosa che può benissimo capitare, è capitato infinite volte nella storia che i bambini addirittura venissero allevati in comunità, per esempio negli orfanotrofi, ma tutt'altra cosa è dire che un bambino può essere figlio di due donne, si è figli di un uomo e di una donna, questa è la verità della nostra specie umana e di tutte le specie animali che hanno la riproduzione sessuale. Cercare di alterare questo dato è semplicemente ideologia. Dal punto di vista biologico non c'è dubbio che sia così, chiaramente la Ma anche da un punto di vista antropologico. Qui non è che faccio parlare il Papa, prendiamo Lacan, che è uno dei massimi psicanalisti del Novecento. Lacan distingue radicalmente la funzione materna e quella paterna. La madre veicola l'affetto, il padre veicola la legge. Se viene meno una di queste due figure, l'equilibrio psicologico del bambino inevitabilmente ne risente. Non dico che il bambino subirà violenze inenarrabili, non è detto questo, non abbiamo le prove, ma perché attivare una sperimentazione così vistosa che altera migliaia di secoli di esperienza umana sulla pelle dei bambini? Non crede, professore, che quello che serve a un bambino, a tutti i bambini, poi sia un contesto familiare, togliamo l'aggettivo familiare, visto che a lei questo immagino non aggrada, un contesto di crescita, insomma, con amore, con rispetto, quello di cui hanno bisogno tutti i bambini, con affetto, indipendentemente da chi li cresca? Ma guardi che i genitori non esistono solo per trasmettere amore ed affetto. Amore e affetto lo possono dare gli amici, lo possono dare i parenti anche più lontani, e può anche capitare purtroppo che i genitori diano poco amore e poco affetto ai propri figli. Il problema è che la funzione genitoriale non è semplicemente quella di amare, ma è quella di radicare il bambino nella sua identità psicologica ed umana. Ed è per questo che le doti materne si differenziano radicalmente da quelle paterne. Ma adesso, non per arrivare ad esempi terra-terra, io non so se questo bambino andrà mai a giocare a football con una delle due pretese madri, o potrà tifare a football insieme al padre davanti al televisore. Sono esempi molto lievi, naturalmente, ma per far capire che c'è bisogno di un equilibrio tra le due immagini. La madre protegge, il padre ordina, e questo va al di là della logica emotiva e sentimentale degli affetti, riguarda la nostra struttura psicologica fondamentale. Insomma, l'importanza della presenza di una figura maschile e di una figura femminile per il bimbo. Io vorrei, da Cinzia Caporale, una delle prime dichiarazioni diciamo la compagna, a questo punto bisogna dire, della madre biologica Margherita, è stata questa: trovo assurdo che se per qualsiasi motivo un uomo dichiarasse di essere il padre verrebbe accettato, mentre io legalmente non conto nulla. In più, se Margherita, cioè la madre biologica, venisse a mancare, tutti i diritti del figlio sarebbero di competenza dei suoi genitori, cioè dei nonni, e non miei, che l'ho cresciuto, lo crescerò e lo crescerò con affetto e amore, e non avrò nulla dal punto di vista legale. È una posizione, Caporale, questa che la convince, se vuole poi anche replicare la posizione di D'Agostino. Francamente sì, la trovo anche molto responsabile. Cioè, io tenderei un pochino a riformulare la domanda, se è una famiglia o non è una famiglia. Direi che è possibile ammettere, come dire, un istituto, il matrimonio che distingue, ma non vorrei che fosse un istituto che discrimina. La preoccupazione della madre è quella appunto della tutela del nato, e direi che è su questo che forse dovremmo concentrarci. Tra l'altro dobbiamo anche abituarci all'idea di più madri, anche da un punto di vista biologico, perché in questo caso la coppia ha fatto una scelta, se vogliamo, più di affidare una sola delle due donne sia la maternità, la gestazione, la gravidanza, sia l'ovocita, cioè il gamete da cui poi è nato il bambino. Ma naturalmente, se vi fosse stato un uovo di un'azione dell'altra, avremmo avuto davvero due madri. Tra l'altro, per l'ordinamento italiano è madre colei che partorisce, non è madre colei che, come dire, che dona l'ovocita. Quindi avremmo avuto eventualmente un padre e due madri, e con le biotecnologie della riproduzione non è escluso che in futuro il numero dei genitori, per via di donazione di cromosomi o di parti genetiche, possa aumentare. Cioè più di due, la insomma, realtà è molto più complicata, diciamo, di accidenti, ecco, illustrata dal professor D'Agostino, che pure naturalmente ha delle posizioni molto solide, questo nessuno disconosce. Io credo questo, che è vero che questo modello tradizionale di famiglia non è più quello dominante. So che siamo in minoranza probabilmente a pensarlo così, anche tra gli ascoltatori, speriamo di convincerne qualcheduno. Direi che c'è stata un'evoluzione dei rapporti sociali, dei rapporti anche economici, che hanno fatto emergere forme diverse. Credo che dobbiamo occuparci dei diritti dei nati in questo senso, e credo che questa sia la preoccupazione della madre. Però ho sentito anche il professor D'Agostino. Dobbiamo scardinare, tutte le nostre leggi per avere una tutela del nato, che sia una tutela come quella auspicata da una delle due donne della coppia. E quello che dice il professor D'Agostino, però, la necessaria presenza di una figura maschile e di una figura femminile, con tutto quello che comporta, insomma, come ha detto il professor D'Agostino, la donna cura e il papà, l'uomo ordina. Adesso non so se erano questi, però mi faceva capire bene, insomma, i ruoli diversi all'interno della famiglia. Questo, Cinzia Caporale, non la spaventa la mancanza di questi due ruoli? Anni di psicanalisi e di studi molto seri. Adesso sarà una battuta, evidentemente. Si è un po' sfumata, ce la ridica perché no, voglio dire, il professor D'Agostino distingueva tra il padre che ordina e la madre che protegge. Ho sempre pensato il contrario, che papà proteggesse e mamma ordinasse, però era una battuta semplicemente. Certamente sono due figure diverse, sono due figure complementari. Purtroppo la realtà ci consegna un mondo frammentato. La domanda di D'Agostino, pur tuttavia, è molto seria, cioè possiamo creare artificialmente questa condizione di eventuale disagio, visto che è una situazione che la realtà ci presenta ad ogni passo? genitori divorziati, vedovi, eccetera. Quindi, però è sempre causa di un accidente. Sì. Siamo legittimati a crearla artificialmente? Io credo di sì, nel senso che mi convince l'idea di proibire qualcosa con degli argomenti più solidi che questo. Allora, 800 24 00 24, ovviamente questi temi poi appassionano le persone che ci chiamano. Sentiamo Enza da Pescara, buongiorno. Salve, buongiorno. Guardi, io volevo fare una distinzione sostanziale tra la famiglia naturale e una famiglia normale. Io non discrimino le famiglie, diciamo le coppie, parliamo di coppie miste, ovvero dello stesso sesso, oppure coppie, oppure famiglie allargate. Io vengo da una famiglia in cui di divorziati degli anni 80. Beh. Quindi ho avuto mio padre che poi si è risposato, dei fratelli che adoro, che sono solo vabbè, di che padre. Questa è una vicenda, sì, però, diversa, insomma, che riguarda, sì, centinaia di migliaia di italiani. Assolutamente, però quello che parlo di una famiglia naturale, quello che può essere ecco il ruolo di un uomo e di una donna in una coppia, in un, sì, contesto. Quindi non la convince l'idea che un bambino possa crescere con due uomini o due donne? Assolutamente non mi convince, anche perché c'è una discriminazione di sesso. Perché due donne potrebbero averlo? Perché naturalmente noi donne... Guardi che anche due uomini capita, perché il cosiddetto utero in affitto, insomma, si va nei paesi in cui si lo so che è brutale la cosa, si prende un utero in affitto e poi c'è una donna ovviamente biologica che partorisce, ma poi il bambino viene dato agli uomini. C'è anche questo, Enza. Sì, magari è meno statisticamente minore come numero, perché è più facile ovviamente biologicamente per la donna partorire, chiaramente. Sì, però ecco, ci sono al limite legami diversi, potrebbero anche crearsi. Però sono d'accordo con la dottoressa, quello della tutela dei bambini. Questo sì, di base. Professor D'Agostino, e se nelle famiglie nelle quali per esempio si scopre che una persona è omosessuale in seguito, e capita, voglio dire, dopo che i figli sono già stati fatti, non è una situazione in qualche modo similare? Non riesco a capire l'argomento. L'omosessuale ha tendenze ovviamente verso il suo stesso sesso, ma si sente uomo, tant'è vero che ordinariamente gli omosessuali non hanno pulsioni transessuali, non vogliono adottare un'identità sessuale femminile. E comunque cerchiamo di non complicare la vicenda citando situazioni che comunque sono statisticamente molto marginali. Torno a dire quello che dicevo prima, possiamo scaricare sui bambini della nostra generazione questo immenso esperimento antropologico familiare? Mi sembra un rischio incalcolabile che facciamo correre ai soggetti più deboli e che oltretutto non sono stati interpellati e non potrebbero esserlo. Non è che mancano famiglie eterosessuali pronte ad adottare bambini abbandonati e non c'è alcun bisogno di ricorrere a tecnologie così raffinate per mettere al mondo dei bambini in una situazione che come minimo per onestà intellettuale dobbiamo tutti definire anonima. Ecco, questo mi preoccupa molto, il desiderio spasmodico di alcune persone di avere un figlio a tutti i costi, non ponendosi seriamente il problema della felicità e dell'equilibrio psicologico di questo bambino. Oh, questo per me è il cuore del problema. L'idea del bimbo a tutti i costi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, le 8:47 minuti, Cinzia Caporale, è una storia questa, come quelle simili a queste, di bimbo a tutti i costi, cioè di volere un bimbo a tutti i costi, lei la vedrebbe così? No, io userei intanto le parole con molta cautela, perché è possibile che qualcuno di questi bimbi, la prima bimba italiana ha 27 anni, quindi nata con queste tecniche, quindi forse li stanno ascoltando, li saluto, quindi... Ecco, preferirei usare delle parole un po' più caute, non c'è un bimbo a tutti i costi, credo che la riproduzione, anzi sono convinta e penso che sia davvero così, è una delle sfere fondamentali dell'esercizio dell'autonomia umana, neanche le dittature più feroci l'hanno proibita del tutto, qualche volta l'hanno limitata, diciamo così, però ecco, la riproduzione umana insomma, non, è difficilmente coercibile, cioè c'è un desiderio, c'è un bisogno e fa parte della natura umana, questa è una parola che piacerebbe anche al professore. Credo una cosa diversa, credo sia molto pericolosa l'idea di stabilire a priori chi è una buona madre o una buona famiglia, l'idea in qualche modo di dare una patente preventiva, chi è legittimato a fare figli e figli presumibilmente che hanno la potenzialità di essere felici. Alla fine sarebbero soltanto gli eterosessuali, probabilmente le persone sane, probabilmente le persone abbienti o comunque che possono facilmente mantenerli, per esempio nel nostro paese preferibilmente gli italiani, magari quelli con determinati valori. Ecco, sono molto preoccupata dall'idea, trovo pericolosissima l'idea di dare una patente preventiva e quindi non parlerei assolutamente né di bimbo a tutti i costi né di sperimentazione sociale. La cosa che trovo interessante è che quello che sembra disturbarci in realtà è l'uso delle tecniche, delle tecnologie della riproduzione, della provetta. Dice, allora è la tecnica che ci disturba. Ma io credo invece che disturbi il fatto, io vedo anche molti messaggi, sa quanti arrivano subito, povero bambino, disgraziati, ecco, genitori, quindi... perché sa, infatti leggevo proprio un commento sul giornale di Anna Maria Bernardini De Pace durante il weekend dicendo, ecco subito mi daranno fastidio quello che come prima reazione diranno povero bambino, cioè, che per carità magari crescerà male, magari crescerà bene, non lo sappiamo, come tutti i bambini. Però su questo il professor D'Agostino so che non sarà d'accordo con me, sì, cioè al dire, al bollarlo come povero bambino. Dunque, lei sarebbe d'accordo a dire? Allora, punto primo, la provetta non c'entra nulla, perché gli argomenti che ho usato io valgono anche per l'adozione di un bambino da parte di una coppia omosessuale. Sì, che è vietata. Quindi mettiamo completamente da parte la tecnica di procreazione, perché non è questo il cuore del discorso. Ma per lei è un povero bambino? Così lo No, è un bambino a rischio. Allora noi per esempio, di cosa? Siamo tutti abituati e non ho mai sentito qualcuno che abbia detto il contrario, che quando una coppia chiede di adottare un bambino debba essere sentita dal magistrato e che il magistrato verifichi l'idoneità della coppia all'adozione. Tutto questo ci sembra talmente scontato che non ci verrebbe mai in mente di sorteggiare le coppie a cui affidare bambini in adozione. Quindi io capisco le preoccupazioni di Cinzia Caporale che ci possano essere indebiti controlli etici, il rischio c'è. Ma il buonsenso ci induce a pensare che è giusto che la società garantisca i suoi cittadini più piccoli, i bambini, perché sono cittadini a tutti gli effetti, hanno diritto ad essere tutelati, contro situazioni del tutto anomale e su cui si possono legittimamente nutrire fondati dubbi e fondate preoccupazioni. Io non sto dicendo che la mia posizione è dogmaticamente vera, dico che ci sono grandi dubbi al riguardo. Sì. Allora, prima di correre dei rischi e di dare questi bambini ordinariamente in affidamento o di farli nascere da coppie omosessuali, andiamoci infinitamente cauti. Anche se, professore, ci sono per esempio ricerche di università americane, dicevo che figli di coppie di persone dello stesso sesso non hanno, non so, negli anni sviluppato aggressività. Guardi, o problemi di crescita diversi rispetto a sentire qui. Intanto seri studi di follow up non esistono addirittura sui bambini nati attraverso fecondazione artificiale, sì, da coppie naturali tra virgolette, quindi stia tranquillo, studi di follow up adeguati ancora non esistono, mentre esiste un gigante della psicanalisi come Lacan, non scherziamo sul nome di Lacan, che insiste sulla doppia figura genitoriale. Lacan, maestro di laicità e di pensiero libero, non certamente né cristiano né dogmatico. Allora, sentiamo Nino da Messina, buongiorno. A parte il fatto... Deve spegnere la radio però, intanto. Nino. Intanto, sì, ha ragione, buongiorno. E dico, a parte il fatto che non esiste solo Lacan, ma ne sono tanti altri, ecco. Dico, tanti altri che la pensano pure diversamente e della stessa autorevolezza di Lacan. A parte questo fatto, io mi domando, in una coppia equilibrata, pur se dello stesso sesso, può esserci chi impone la legge e chi invece esercita l'affetto? E quindi il bimbo può pure crescere in maniera equilibrata, pur in una coppia dello stesso sesso? Cioè il fatto di poter scartare a priori questo si fa, questo non si fa, in materie del genere è veramente privo di... secondo me di raziocinio e soprattutto di rispetto per la vita vera, quella che si esprime realmente in tutte le persone. solo questo. Grazie Nino da Messina. Professoressa Caporale, un bimbo a rischio, dice il professor D'Agostino, su questo punto lei non vede effettivamente dei rischi anche solo dell'ingresso di questo bambino durante la crescita nella società? Volevo dire, si trova in una situazione almeno statisticamente, se vogliamo metterla così, non giudicando eticamente, ma statisticamente nettamente minoritaria, insomma. Vedi, sono tre piani diversi: il senso di responsabilità, il problema morale e il problema legale. Allora, legalmente questo è ammesso, ma non ci sono tutele sufficienti dopo che il bambino è nato per garantirgli, ecco, l'eredità di entrambe le genitrici o per l'adottabilità da parte dell'uno o dell'altra se una viene a mancare e così via. Credo che a questo uno Stato dovrebbe far fronte, perché uno Stato non può pianificare la realtà indicando la via delle virtù, ma deve occuparsi delle conseguenze. Però ci sarà un problema pratico quando alle elementari dirà quella è mia mamma e quella è mia mamma? Ecco, per l'appunto, cioè, da un punto di vista poi morale, credo che ci sia una pluralità di posizioni, quindi non mi addentro su questo. C'è un problema di responsabilità che non nego, cioè è responsabile tutto questo? Allora, sicuramente io non sono una di quelle che si mette in cattedra e dice cosa è responsabile e cosa non lo è. Però insisto, sono moltissime le condizioni analoghe per così bambini a rischio. Sono a rischio un numero elevato di bambini in famiglie molto povere, sono a rischio bambini che nascono da genitori molto avanti negli anni, sì. Sono a rischio bambini che ad esempio nascono in famiglie dove ci sono dei problemi seri, tipo la tossicodipendenza, la violenza. Violenza, quindi lei non racchiuderebbe il rischio motivo, in questo? È un buon motivo per mettere, appunto, come dire, per cambiare culturalmente, per essere più tolleranti e accoglierli semmai in questo mondo, ed è a parte la crescita culturale, è un buon motivo per creare dei servizi tali per cui poi insomma un po' tutti questi bambini a rischio, che sono forse 9 su 10 per ragioni diverse, vengano aiutati e si possono trovare bene. Allora mi devo fermare, sempre il 75% rimane contrario, cioè non è una famiglia, non la considerate una famiglia. Ringrazio il professor D'Agostino e la professoressa Caporale per essere stati con noi, Sara Spirafico in redazione, Peter Bescapè in regia. Potete trovarmi alla Zanzara se volete anche questa settimana dalle 18:35, se no domani alle 7:30. A domani.